molto più carine coperà. Puntata numero 3 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie. Il programma di Radio Big World che cerca di aiutare quei poveri provinciali come me a cercare di far bella figura con i fiorentini, perché tanto alla fine comandano loro, tant'è che sul giornale è già venuta fuori la mappa, già disegnata negli anni 80, della grande Firenze che ci mangerà tutti. Fanno finta che sia stato uno scoop, in realtà lo sapevano benissimo. E allora, siccome con Firenze abbiamo da relazionarci, cerchiamo di imparare come il fiorentino pensa, si muove e si muove per andare in vacanza. Io, che non sono fiorentino e che in vacanza non ci vo perché c'ho l'orto da badare, non vi sarei di aiuto, ma abbiamo la nostra maestra di buone maniere fiorentine, che è Laura. Soprattutto maestra di vacanze al mare, perché io ho passato grandissime estate in tutti i mari possibili, immaginabili, adoro, anche perché il fiorentino appena può va al mare, cioè un caldo a Firenze, sai benissimo, non è molto sopportabile, Firenze si svuota. E poi proprio, essendo lontani dalla costa, magari ci manca lo iodio, ci serve un po' per sballarci, ecco. Sì, ci serve, certo. Ma stavolta parliamo di mare, continuiamo a parlare di mare, ma di un mare che non è né toscano né italico, quindi qui stavolta si casca piuttosto in piedi, cioè non si riparlerà della Versilia, e parliamo del mare estero. Il fiorentino, il mare estero, che tipo di mare preferisce? Preferisce un mare europeo o piuttosto andare fuori? Può anche andare fuori, eh? Allora, se vai d'inverno, ovviamente vai o a Zanzibar o a Mauritius o ai Caraibi, insomma, se te lo puoi permettere, perché no? Perché no? Andare nelle conversazioni, che ne so, tra un bombolone e un altro, la mattina di un dicembre, dice, sai, vado in vacanza al mare, e c'è da dire una di queste località per non passare male. Sì, insomma, se te lo puoi permettere sei un gran figo, eh? Soprattutto tornare super abbronzata quando tutti sono infreddoliti, bianchi cadaverici e tutte ne sono, questa è stata a Zanzibar, insomma. Secondo me ci batte solo il milanese in questo, figa, sono stato a Mauritius, insomma, anche a Fiorentino, però ragazzi, sono stato alle Seychelles, insomma, mica male, alle Maldive, lascia fare. Quindi il fiorentino, per avere l'abbronzatura, è disposto a far saltare in aria tutto il suo pensiero bancario e spendere un sacco di soldi pur di tornare in inverno e dire sono stato al mare in questo posto. Esatto. E invece se devi stringere la cinghia e accontentarti di una vacanza un pochino più in un luogo un po' meno esotico, più vicino, e andare appunto ad agosto, rimani nel Mediterraneo, perché oddio, ci sono quelli che vogliono comunque andare fuori Europa anche ad agosto, ma secondo me non ha senso, perché insomma ci sono talmente tanti bei posti. Ha senso andare fuori Europa quando qui è freddo, secondo il mio modesto parere da fiorentina e amante del mare. E quindi d'agosto c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono le Baleari, c'è la Croazia, c'è la Grecia, tutte le isole greche, insomma dai. Quale tra questi mari europei è il più gettonato, quello che va di moda negli ultimi tempi, oppure addirittura un po' come i tedeschi alle Baleari, che praticamente sono loro colonie, quindi per i fiorentini esiste una Firenze dove tutti vanno, ma che è fuori Italia? Ma Formentera potrebbe essere, faccio se ci siete anche voi Valdarnotti, Formentera. Anzi, no, forse ci battete. Il fiorentino dove va? In Croazia ci va, in Grecia va, sì. Ma forse non c'è proprio una località specifica. Le isole vanno, ecco, già di dire che tu vai su un'isola invece, cioè dire è no, più figo andare su un'isola che andare sulla terraferma. Cioè se te dici sono stato in Grecia, dove? A Paros, a Mykonos, a Santorini, invece se dici ma sul Proponneso, oppure insomma Grecia terraferma. Ah, insomma, meno cioè, meno fascino. D'accordo, quindi dire sono stato a Sparta, uno ci fa pure la figura no. Del... In Croazia dove? Ah, sull'isola di Kres, sull'isola di Kirk. Ah, wow, no? Sì, secondo me ecco, l'isola tira. Ma pensate, ma queste nuove località di mare, va bene, europee, va bene, d'accordo, sono località di mare, diciamo, di nuova generazione, però l'Albania, la Romania mi auguro ci abbia il mare, io ho detto così. Mi sa che c'ha solo un lago. C'ha solo un lago, va bene, allora lasciamo la Romania, ma per esempio l'Albania e la Bulgaria dicono che il mare sia bellissimo da una parte. L'Albania e il Montenegro. Sono le nuove mete che potrebbero fra qualche anno avere un boom, perché spendi poco, hai un bel mare tipo Grecia. Qualche isola c'è, sono poco battute. D'accordo, quindi il fiorentino in questi posti ci va a nozze. Parlando di fuori Europa e quindi di estate, e senza che ci sia la necessità di mostrare l'abbronzatura a Firenze mentre tutti sono intabarrati per il freddo, c'è una località che i fiorentini scelgono e che è più popolare, che ne so, Cancun in Messico, un posto tanto che lì è facile trovare fiorentini? Dice di sì, Cancun in Messico, per andare di là, nell'altro emisfero si posso dire la Thailandia, ecco, Phi Island, anche quella è un'isola, quindi fa figo, Bali, insomma. D'accordo, quindi dove c'è un'isola? Interessantissimo. I fiorentini preferiscono decisamente le isole, non importa in quale parte del mondo, è Zanzibar per esempio, ma l'importante è che siano delle isole. Incredibile, Laura, abbiamo scoperto un aspetto della fiorentinità che magari era rimasto nascosto, che pure solo si sussurrava nei vicoli del centro, grazie di questa preziosissima informazione. Prego, figuriamoci. Andiamo all'isola d'Elba intanto, dai che fa caldo, è più facile raggiungerla. Allora mi raccomando, provinciali, se troverete dei fiorentini in giro, oppure se tornerete a settembre o a ottobre e andrete a Firenze, ricordatevi di dire che siete stati in vacanza in Versilia, però avete fatto una capatina al Nano Verde, come facevi a non farcela, naturalmente anche l'isola d'Elba, e poi inventatevi un mare estero, l'importante è che ci sia un'isola.